Ma allora, da questo punto di vista, io non posso non segnalare la mia moderata, che sta diventando sempre meno moderata e sempre più alta preoccupazione come livello di guardia. Devo dire che io ho totale fiducia perché sto seguendo ora dopo ora, ovviamente, l'iter del rifinanziamento del Comitato Paralimpico con il sottosegretario Casero all'economia e con il sottosegretario Crimi allo sport, dai quali ho ricevuto le più ampie rassicurazioni in merito. Certo è che oggi, alla data di oggi, siamo in difficoltà perché abbiamo un bilancio preventivo che abbiamo sottoposto per l'approvazione al nostro organo vigilante, che è l'Ufficio Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, che non è approvato perché è un bilancio virtuale, perché ricomprende nel proprio seno quello che era il finanziamento dello Stato, che ad oggi non c'è, per cui non siamo assolutamente in grado di operare. Ecco, in soldoni, per quanto riguarda il Comitato Paralimpico, di che volumi, di che cifre stiamo parlando? Ma noi il finanziamento negli ultimi anni è stato sempre di 6 milioni di euro da parte dello Stato, che insomma non credo che siano grandi cifre all'interno di un bilancio dello Stato, però questo è quello che oggi manca.